Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Cercheremo di addolcire un po' la serata parlando di dolci, parlando di pasticceria, parlando di una storia imprenditoriale tutta italiana che rappresenta un'eccellenza nel campo appunto dolciario. Il libro di cui parliamo questa sera è Volevo fare il pasticcere ed è scritto da Adriano Morario con Alberto Balocco. Balocco, un nome che è certamente conosciuto. Buonasera Adriano Morario. Buonasera a voi tutti quanti. Adriano Morario è un giornalista, è stato al Sole 24 Ore oltre che all'Ansa e ha collezionato anche alcuni libri sul fronte delle storie aziendali. Di uno abbiamo parlato in questa nostra rubrica, 100 storie di impresa, 100 storie di imprese e di imprenditori che hanno accettato la sfida della crisi, La carica dei 101, un altro libro. Quindi è un po' abituato a parlare di imprese. E allora Adriano Morario, qual è stata la sorpresa maggiore nell'incontrare Alberto Balocco, appunto di questa dinastia imprenditoriale? Qual è la caratteristica di questa impresa per cui ha meritato un libro? Ha meritato un libro perché il punto focale di questa storia è localizzato, diciamo così, a Fossano, perché è la città dove questa azienda, la Balocco, produttrice di panettoni, di pandori, di biscotti, famosissima sicuramente, nel 1982 ha un punto veramente critico nella sua vicenda, perché il papà di Alberto, l'attuale presidente e amministratore delegato, non sta bene fisicamente da un punto di vista sanitario, è solo al comando, un uomo solo al comando, e si domanda che ne sarà di questa azienda, che ne sarà della mia famiglia, che ne sarà dei nostri collaboratori. Loro hanno sempre parlato di collaboratori, non di dipendenti. Se io venissi meno. E questo interrogativo gli frulla nella testa per tanto tempo. E mentre gli frulla nella testa questa domanda, che cosa succede? Succede che la Nabisco, la conosciamo, la grande multinazionale americana, osserva, vede questa azienda che va bene, che non ha problemi, e fa la sua proposta di acquisto. Il papà è fortemente tentato di cedere, lo dicevo, per ragioni di salute e per ragioni sue storiche, personali, per ragioni della sua azienda. E sta, appunto, dicevo, sta per cedere, ma si ferma a un momento e decide di chiamare a rapporto i figli. I figli allora erano dei ragazzini. Alberto aveva 16 anni, la sorella Alessandra ne aveva 18. E racconta loro, come si suol dire, la rava e la fava, cioè racconta com'è la situazione. E Alberto, che ripeto aveva 16 anni all'epoca, 1982, dice: papà, fermati, dacci fiducia. E noto, ti leggo proprio tre righe, è sì. Noto l'adagio secondo il quale la prima generazione costruisce l'azienda, la seconda la conserva, la terza la manda alla malora, e noi come terza rischiamo di incarnarla in pieno, racconta Alberto nel libro. Ma gli faccio capire che tutti e due, mia sorella e io, ci considereremmo dei buoni a nulla se non ci desse la possibilità di misurarci entrando in azienda al suo fianco. E quindi, con l'entusiasmo dell'adolescenza e con la stima sincera verso di lui e verso ciò che ha creato, voglio convincerlo a tener duro. Hai dato l'anima per costruire qualcosa di bello, papà, e noi lo sappiamo. Perché mai non dovremmo impegnarci a fare altrettanto? E il papà dà loro retta. Da retta alle promesse di un ragazzino di 16 anni. Ecco, da qui comincia tutta un'altra storia della Balocco, perché i ragazzi, ma poi lo leggerete se acquisterete il libro, cambiano completamente le prospettive della loro adolescenza e dei loro studi, e si preparano all'ingresso in azienda che avverrà di fatto nel 1990, anzi diciamo teoricamente sul finire dell'89, ma nella pratica all'inizio del 90. E da lì i due ragazzi rifanno propria tutta l'eredità, un'eredità bellissima, no? Che risale a due generazioni precedenti, perché l'azienda nasce nel 1927 con la prima pasticceria, con la seconda pasticceria nel 1933 e poi col primo stabilimento nel 1950, quindi il passaggio dalla fase artigianale a quella industriale, e fino al 69 con il nuovo insediamento che è quello attuale nella frazione Santa Lucia, sempre a Fossano. Ma poi arrivano loro e devono rifare l'azienda, devono rifare, riconquistarsela e rifarla dal punto di vista dei responsabili delle, dei vari settori, e da lì comincia, come dicevo prima, una nuova fase. Ecco, quindi un'azienda che è arrivata alla quarta generazione, smentendo un po' i luoghi comuni, però un'azienda che è cambiata moltissimo negli ultimi anni, che si è aperta, è rimasta un'azienda familiare, ma non un'azienda locale, un'azienda che è diventata nazionale e internazionale, un'azienda che ha saputo fare innovazione in un settore vecchio quanto il mondo, quello della pasticceria. Sì. Cosa vuol dire appunto fare innovazione in un'azienda di questo tipo, Adriano Morario? Vuol dire ovviamente introdurre le nuove tecnologie produttive. Questo è stato un pallino, diciamo così, dell'azienda da sempre, sin dal papà di Alberto, Aldo, e poi in modo molto molto deciso e spinto con la presenza di Alberto Balocco. Le nuove tecnologie sono state un problema da un punto di vista, diciamo, sociale per l'azienda, perché la Balocco si è sempre fondata e ha puntato moltissimo sui suoi collaboratori, e introdurre nuove tecnologie, nuove linee produttive automatizzate voleva dire fare a meno di personale, e loro sono riusciti comunque a mantenerlo il proprio personale, in ogni caso a introdurre le novità produttive, puntando sulla qualità del loro prodotto, ma innovando continuamente. Questo non è l'unico elemento che ha dato il successo a questa azienda. Parliamo oggi di un'impresa che fattura a fine 2016 oltre 170 milioni di euro, che dà lavoro a quasi 400 persone, quindi un'azienda di un considerevole valore, ma è un'azienda che ha potuto crescere puntando su tanti fattori, sicuramente sul forte legame tra la proprietà e la dirigenza. Certo. Dirigenza scelta con grande oculatezza, poi con un ricorso al debito molto, molto basso, con investimenti continui, con il tentativo di rinnovare i propri prodotti, e poi facendo, lo sappiamo, un grande utilizzo delle campagne pubblicitarie. Ecco, una pubblicità che è andata anche con le sponsorizzazioni, con la Juventus prima, con il Giro d'Italia, sì. Cioè con una capacità di legare anche l'immagine dell'azienda a quella dello sport, quindi un'azienda che non rende obesi ma rende un po' più felici, insomma, cioè fare il pasticcere è qualcosa che può essere anche positivo in una realtà attuale che bada molto alle diete, che bada molto appunto a quello che sono i contenuti anche di quello che si mangia, però ecco un'azienda che ha saputo presentarsi in modo tradizionale, però con un'ottica molto moderna. Sicuramente, con un'ottica molto moderna, approfittando di ogni opzione. Tengo a precisare, ne parlavo proprio nei giorni scorsi all'Università di Genova, dove ho raccontato questa storia aziendale, che la cosa che colpisce è che con l'arrivo dei giovani certamente c'è stato tutto un lavorio per quel che riguarda l'analisi del mercato, per quel che riguarda il comprendere i bisogni e gli interessi alimentari dei consumatori, ma questa azienda nel suo DNA ha una crescita, e la storia lo documenta, una storia che è stata continua, una crescita che è andata per continui tentativi, cioè si faceva una cosa e si capiva che bisognava farne un'altra, ecco, quasi senza programmare, senza avere prendere delle decisioni a tavolino, ecco, è stato un continuo lavorio che ha portato a pensare che si doveva fare quel determinato passo, e quel determinato passo è stato fatto. Faccio un esempio. Sì. Adesso l'azienda, che ha un 12% di fatturato ottenuto all'estero, sta cercando di internazionalizzarsi in modo deciso, e intorno al nel primo semestre del 2018 probabilmente sarà già in funzione una nuova parte dello stabilimento dove verranno realizzati prodotti export oriented, cioè pensati esplicitamente per l'export. Quindi rovesciando la logica del facciamo prodotti italiani da vendere all'estero, no, saranno prodotti da vendere all'estero da proporre anche in Italia. Ecco, questa è una, appunto, una dimensione nuova. Un'ultimissima domanda molto rapidamente, Adriano Morario, sappiamo la zona di Fossano non è lontana da Alba, cosa c'è di particolarmente rilevante che fa nascere queste industrie dolciarie ad Alba? C'è la Ferrero in questa zona del Piemonte? C'è di particolare, una grandissima tradizione nel dolciario che ha riguardato la città di Torino e ha riguardato la provincia di Cuneo. Tant'è vero che il fondatore della Balocco nel 1919, e aveva 16 anni, va a Bra in una famosissima pasticceria a imparare il mestiere. Ma lui aveva già cominciato, che aveva 10-11 anni, pensate. Era stato nelle confetterie più famose della città di Torino. E questa vuol dire anche fare rendere la vita un po' più dolce a tutti, quello che speriamo, augurandoci, anche se l'anno è iniziato già da tempo, buon anno a tutti, un anno sicuramente dolce. Grazie ad Adriano Morario di essere stato con noi questa sera. Abbiamo parlato del libro Volevo fare il pasticcere, edito da Rizzoli. Sono 258 pagine per 9,90 euro. Grazie anche a Pietro Bescapè in regia, Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagine è per sabato prossimo.